731. Sapa. La sapa, che altro non è se non un siroppo d'uva, può servire in cucina a diversi usi, poiché ha un gusto speciale che si addice in alcuni piatti. È poi sempre gradita ai bambini che nell'inverno, con essa e con la neve di fresco caduta, possono improvvisar dei sorbetti. Ammostate dell'uva bianca, possibilmente di vigna, di buona qualità e ben matura, e quando sarà in fermentazione da circa 24 ore, estraetene il mosto e passatelo da un canovaccio. Mettete questo mosto al fuoco e fatelo bollire per molte ore, fino a consistenza di sciroppo, che conserverete in bottiglie. Conserve. Le conserve e le gelatine di frutta fanno molto comodo nelle famiglie, perché entrano spesso nella composizione dei piatti dolci, sono gustate dalle signore alla fine di una colazione e spalmate sul pane sono un ottimo spuntino nutriente e salubre per i bambini.